nucleo dove il fuoco scalda, dove l'amore non si assomiglia. Ogni famiglia ha una sua storia, a volte singola, a volte strana. C'è chi ha avuto una madre, un padre, una zia, un nonno, un dolore, una suora, un prete, un omosessuale che ha dovuto farsi strada, lottare. Cosa disse ai suoi discepoli colui a cui avete tradito il cuore? Io di spada sono venuto a separare il figlio dal padre. E allora perché continuate ad infangare le sue parole? La famiglia che dovreste difendere ha un solo nome, un solo cuore. Ve lo dico io, visto che siete ciechi dal battesimo. La famiglia non si limita a poche persone, né si imprigiona in due. Solo parole, la mia famiglia è la terra intera, tutta la storia è la mia memoria, i miei fratelli sono miliardi, le mie sorelle tutte mie stelle, la mia famiglia pianta radici in ogni sguardo che porta luci, in ogni essere che rifiuta vendetta, in ogni popolo che domanda giustizia. La mia famiglia è universale, non ha confini, non ha frontiere, non ha un tetto su cui riposare. La mia famiglia è il vento del mare, un piatto a tavola sempre pronto per chi ha subito le ingiustizie del fango. La mia famiglia è madre di madri, figlia del cielo, padre dei padri. La mia famiglia è la terra intera, tutta la storia è la mia memoria, i miei fratelli sono miliardi, le mie sorelle tutte mie stelle. La mia famiglia è universale, non ha confini, non ha frontiere, non ha un tetto su cui riposare. La mia famiglia è il vento del mare, la mia famiglia pianta radici in ogni sguardo che porta luci, in ogni essere che rifiuta vendetta, in ogni popolo che si nutre di giustizia.